Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Anche oggi, con la crescita dell'economia a livelli da zero virgola e con il debito pubblico che continua a pesare come un macigno sulle prospettive di sviluppo del paese, servirebbe una cura alla Ciampi, come quella messa in atto nel 1996-97 dal governo Prodi, appunto con Carlo Azeglio Ciampi, ministro del Tesoro, una manovra che consentì al nostro paese di entrare a far parte del gruppo di testa dei paesi aderenti all'euro. Lo ha proposto sul Sole 24 Ore dello scorso 6 febbraio l'economista Innocenzo Cipolletta, che è attuale presidente di Assonime. Una manovra di bilancio, quella disposta da Prodi e Ciampi nel 96, che aveva, come ricorderemo tutti, come suo punto di forza l'eurotassa, vale a dire il prelievo straordinario chiesto agli italiani, che fruttò circa 4.300 miliardi delle vecchie lire, poi restituita al 60% dal governo D'Alema. Quella manovra consentì a Prodi e Ciampi, grazie soprattutto al prestigio di Ciampi e alla sua autorevolezza, di riconquistare la credibilità presso i mercati e presso i partner europei. Ne parliamo questa sera proprio con il professor Cipolletta. Buonasera e benvenuto, professore. Buonasera a tutti. In un anno, il 1997, decisivo per la prova di ammissione alla moneta unica, il deficit da oltre il 7% passò al 2,7% del PIL. L'eurotassa costituì parte rilevante dell'azione di politica economica messa in atto dal governo Prodi, una scommessa che Ciampi condusse convincendo i mercati e i dubbiosi partner europei sulla solidità del risanamento messo in atto. I dati di finanza pubblica nel 1996 mostravano che l'Italia sarebbe riuscita ad agganciare il treno dell'euro solo un anno dopo. Il deficit era molto lontano dal limite massimo del 3% del PIL previsto dagli accordi europei. La rituale manovra correttiva, varata il 19 giugno del 1996, provò a invertire la rotta. Per il 1997 si prospettava una manovra di 32.400 miliardi delle vecchie lire. La svolta si ebbe dopo il vertice italo-spagnolo di Valencia del 16 e 17 settembre, da cui emerse la ferma determinazione del governo allora presieduto da José María Aznar di far parte del gruppo di testa dei paesi fondatori dell'euro. Prodi e Ciampi si resero conto che la scelta della Spagna avrebbe avuto un impatto non da poco. L'Italia, paese fondatore della Comunità Economica Europea, sarebbe stato l'unico dei grandi paesi dell'Europa mediterranea, la Grecia era molto lontana dai parametri richiesti, a spingere per un rinvio dell'esame di ammissione all'euro. Prodi e Ciampi decisero di tentare. Andarono in Consiglio dei Ministri e proposero il raddoppio della manovra comprensiva dell'eurotassa. Alla fine la partita fu vinta e il deficit venne ridotto ben al di sotto del fatidico 3% del PIL. L'Italia era nel gruppo di testa dei paesi aderenti alla nascente moneta unica. Allora, professor Cipolletta, la sua proposta ha anche suscitato un acceso dibattito sulle colonne del Sole 24 Ore, ma insomma, una manovra alla Ciampi sarebbe proponibile anche oggi? Sì, secondo me, almeno lo spirito della manovra, sicuramente i tempi sono diversi e le modalità dovrebbero essere diverse, ma oggi noi ci troviamo con un disavanzo pubblico dell'ordine del 2,2% che non riesce a far diminuire il peso del debito. A questo punto la mia proposta consiste a fare uno sforzo per ridurre di almeno un punto questo disavanzo pubblico, portarlo verso l'1%, e questo consentirebbe al debito pubblico di scendere. Come fare a avere questa riduzione? Sicuramente una strada molto semplice è quella di far scattare quelle famose clausole di salvaguardia che ogni anno abbiamo per 26-27 miliardi di euro di aumento IVA. L'IVA potrebbe essere rimodulata, come più volte viene detto, e questo sarebbe un una tassa di incremento che potrebbe ridurre il disavanzo pubblico, ma ovviamente c'è anche la strada di riduzione della spesa che si può ottenere. In questo caso noi avremmo una riduzione del disavanzo che abbatterebbe il debito, la caduta del debito ci farebbe scendere lo spread, il famoso spread, la riduzione dello spread si tradurrebbe in minori interessi pagati sul debito pubblico e questo aprirebbe negli anni che vengono successivamente uno spazio perché l'Italia riconquisti una sovranità nella sua politica fiscale. Oggi l'Italia ha perso questa sovranità e non può con la sua politica fiscale aiutare il paese. Quindi la mia proposta è fare un sacrificio oggi per riconquistare una capacità di condurre la finanza pubblica in termini positivi a partire dal 2021-2022. E già poi avrebbe anche un pregio questa proposta, quella magari di mettere in moto un circuito virtuoso che riporti finalmente questo paese a crescere. È vero che la crescita, come dire, si muove su altri binari, ma la finanza pubblica è determinante per la crescita, quindi poiché ci muoviamo su tassi dello zero e qualcosa e forse potrebbe essere utile, ma il problema è vedere se a livello politico viene accettato l'idea di aumentare l'IVA, ad esempio. Ma questo evidentemente è una proposta fatta da un economista, certo, che vada ai numeri più che alle compatibilità sociali e politiche. Per questo io dico, non c'è soltanto l'IVA, si può fare anche riducendo la spesa, ma quello che è importante, credo, che i politici si assumano la responsabilità di ridurre il debito. Se non riduciamo il debito, noi saremo sempre prigionieri di una finanza pubblica che non riusciamo a gestire. E vorrei ricordare che se si comincia a dare la prima botta al debito, dopo poi la riduzione viene in automatico perché si pagano meno interessi e quindi il debito stesso riduce. Questo è il concetto della manovra alla Ciampi. E noi ci siamo molto lontani perché, come ha ricordato il lettore della proposta di Ciampi, all'epoca bisognava ridurre il disavanzo pubblico dal 7% a sotto il 3%, al 2,7%. Oggi si tratta di ridurlo dal 2,2% all'1,1,2%. E quindi onestamente è una manovra che si può fare. Mi rendo conto che la situazione politica attuale, con discussioni che vanno in tutt'altra direzione, resta difficile, ma io credo che il compito degli economisti e delle persone sia quella di mantenere gli obiettivi che sono necessari al Paese, indipendentemente da quelle che sono le condizioni politiche per attuarle. Certo, allora come adesso c'è il tema della credibilità di un governo, di un Paese sui mercati internazionali, che poi sono quelli che finanziano il nostro debito. Allora ci riuscì Ciampi, ora purtroppo non abbiamo un Ciampi, però al tempo stesso si potrebbe agire sempre su questo tema della fiducia e risparmiare sullo spread, sugli interessi. Anche lì potrebbe esserci un aiuto in linea con la sua proposta. Assolutamente. D'altra parte abbiamo comunque un ministro dell'economia, certo, che è una persona che viene proprio da Bruxelles, essendo stato parlamentare europeo, quindi è una persona conosciuta a livello europeo, può dare le garanzie. Quello che dobbiamo evitare, se si seguisse la strada che io ho suggerito, è che poi qualche mese dopo si cambia governo e quello che viene dopo cambia di nuovo gli obiettivi, perché la proposta di Ciampi fu molto ben articolata e riuscì, però c'è anche da ricordare che poi venne il governo Berlusconi successivamente, ricominciò a spendere e il vantaggio che avevamo acquisito lo abbiamo perso in pochi anni, quindi il problema è non solo fare una operazione di riduzione del disavanzo per un anno o due, ma mantenere questo livello di disavanzo anche negli anni successivi. Sì, perché c'è un tema, l'ultimo che vorrei trattare, professor Cipolletta, che è un po' tecnico ma è fondamentale, che riguarda il famoso avanzo primario, che lo diciamo ai nostri ascoltatori, è sostanzialmente la differenza tra entrate e uscite tolti gli interessi. Ecco, nel 98 noi l'avanzo primario ce l'avevamo altissimo, oltre il 5% del PIL, ma nel 2004 era stato azzerato. Quindi è anche colpa nostra. È totalmente colpa nostra, difatti per questo quello che sarebbe opportuno è una continuità della politica. Noi possiamo avere una continuità della politica anche in presenza di governi diversi se le persone che si susseguono ci riconoscono in questo obiettivo. Quindi la mia proposta è una proposta che non dovrebbe fare un governo in quanto tale, ma dovrebbe fare un governo una volta che si accorda anche con l'opposizione, dicendo: signori miei, qua siamo nella possibilità di eliminare un problema per l'Italia, mettiamoci d'accordo come fare, lo eliminiamo e dopo chi viene dopo continuerà su questa strada, perché solo così l'Italia riacquista una reputazione e ne avremo un premio enorme, perché a questo punto pagheremo gli stessi tassi di interesse che paga la Francia o anche la Germania, e che per un paese che ha un debito pubblico grosso, anche se va in diminuzione, è veramente un vantaggio significativo. In fondo l'eurotassa, come dire, riattualizzata oggi, si potrebbe tradurre in un parziale aumento dell'IVA, in un contenimento della spesa, in sostanza un'operazione fattibilissima, cioè dal punto di vista tecnico. Poi bisogna vedere se ci sono dimensioni anche fattibili, assolutamente, io credo che sia fare. Ricordiamoci che l'Italia ha comunque un'aliquota IVA molto elevata, ma un gettito IVA molto basso, non solo per l'evasione, ma anche perché ha moltissime beni e servizi che sono ad aliquote ridotte, quindi non si tratta di aumentare l'aliquota dell'IVA normale, ma si tratta di togliere qualche esenzione, riportare a livello di normalità alcune aliquote, e questo riduce di molto l'erosione fiscale e aumenta il gettito senza che sia un grosso dramma per nessuno. Sì, e poi forse si potrebbe cominciare a mettere mano anche alle cosiddette agevolazioni fiscali, ma anche questo è un capitolo, come dire, ad alta sensibilità politica. Certo. No? Certo, purtroppo mi rendo conto che siamo sempre alla vigilia di qualche elezione, ecco, e quindi qualche problema si pone, però se effettivamente questa legislatura va a termine, ci abbiamo ancora un paio d'anni davanti a noi. Ci si può provare. Bene, molte grazie professor Cipolletta per averci illustrato meglio questa sua proposta di una cura alla Ciampi anche oggi. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Luca Cremonese in redazione, e cari ascoltatori, a risentirci alla prossima settimana. Buona serata a tutti.